sempre noi, quelli che si emozionano per niente, che non gliene frega della gente, che vivono di piccoli e di grandi sogni, che se glieli togli tutti muoiono, si commuovono a un concerto del Liga, se parlano con Gianni o con Beppe, davanti a una bottiglia di Mirto artigianale, alle piccole rivincite da perseguire. Quando la notte è alta e non si riesce proprio a dormire, la nostra vita è questa qua, pane, fantasia, gioia, inquietudine, due sigarette dopo il caffè, e si guarda dietro i vetri la malinconia, due anime insieme, notte di città, negli attimi che vanno via, e che solo la domenica comprano il giornale, mare da navigare, stanze di alberghi da sognare, due anime insieme, nella notte e nel giorno, senza partenza e senza ritorno, con la musica nel sangue e le parole nella testa, senza palco, senza luce, la passione che ci resta. Eroi di questi tempi sbandati, siamo noi che non siamo mai partiti, ma siamo sempre ritornati. Na na na, la nostra vita è questa qua, pane, fantasia, gioia, inquietudine, due sigarette dopo il caffè, e si guarda dietro i vetri la malinconia, nella notte di città, negli attimi che vanno via, e che solo la domenica comprano il giornale, mare da navigare, stanze ed alberghi da sognare, due anime insieme, nella notte e nel giorno, senza partenza e senza ritorno, con la musica nel sangue e le parole nella testa, senza palco, senza luce, la passione che ci resta, siamo noi i nuovi eroi di questi tempi sbandati, siamo noi che non siamo mai partiti, ma siamo sempre ritornati. Na na na. Ritorno con la musica nel sangue e le parole.